Insomma, signorini, in poche parole, io sono venuto qua per fargli una confessione, ecco. Mi dica, Amedeo. Lei la conosce Moby? Chi? Moby Dick, mia moglie, la balena. Beh, insomma, io la notte, quando faccio l'amore con mia moglie, no? È come se Barnard mi trapiantasse il cuore. Mi viene una specie di rigetto. Voilà. Io che c'entro, scusi? C'entra, signorina, come? Lei è bella, sa, mica è come mia moglie. Allora mi sono detto, caro Amedeo, ti amo della signorina, è vero che ci dà un poco di sollezzo, capisce? Venga qua, s'accomodi, non faccio la gnorri. Lo dice anche il proverbio che la signorina si lavora e si fatica per la pancia e per la musica.